fuggo io mai? Dove mai cielo gli orrendi affanni miei? Come quei canti mi risuonano all'alma, amori pianti. Elvira, mio sospir soave, per sempre io ti perdei, senza speme d'amor, senza speme d'amor, in questa vita, perché amor, io ti dai sciagure a pe.